Sono le 7:32 minuti primi e non posso nemmeno più prendermela con Spadino per il ritardo, è colpa mia. Ma sai, c'è che me ne fotta moi. Let the sunshine, facciamolo splendere anche quest'oggi, dai, che ce n'è di bisogno. Facciamolo splendere per Osborne One e i suoi amici, per Franz con il suo classico editoriale anche di quest'oggi. Toccante anche quest'oggi, Franz. Oscar e Gibson per Malosi, il burro, Meg. Let the sunshine. È la prima volta che sento la sigla per intero. Figata. Allora, si chiama Virus Lei da Genova e quest'oggi ha la visita per entrare in ferrovia. Sarò il primo capotreno rock. Facci sapere, eh? Il patentato 110 scrive: senza Spadino non è più la stessa cosa. Un altro controbatte, visto che non c'è più Spadino, perché non assumete Ernest? Se n'è già andato Ernest. Salutiamo Ma. Meno male che arriva Pasqua, devo fare più lavoro del solito in 2 ore in meno del solito. Ciao Drino, Shiva Shankar, buona giornata a voi. Aia. Che splenda anche per Lori, patente 552. Vuole gli auguri per papà Silvano che oggi me ne compie 60. Bella Silvano. Mike, ti aspettiamo a luna, eh? The sunshine. Henry, dalla provincia di Pisa. Spritz, ieri al supermercato ha visto un detersivo col mio nome. Momento bizzarro. Si chiede il barattolo dell'amore per fare il sugo. Che ridere. Il pistola! Cazzo fai sveglio a quest'ora, pistola? Lavori anche tu? Resta colpito dai jingle di Frigidaire. Ma ne ho ancora da far sentire. Seconda mezz'ora, la iniziamo con il boss. Spadì, non posso neanche più prendermela con Spadina, capito? Devo far tutto da solo. Schiaccio io? Ho schiacciato. Mama's reins. with me, 'cause I play in a rock and roll band. And I know your daddy don't dig me, but he never did understand. Your papa lord the fool, good luck to you and roll. I'm coming to lend a hand. I'm coming to liberate you, confiscate you. I want to be your man. Someday we'll look back on this. Giornata, è un vero piacere anche quest'oggi entrare lì nella vostra autovettura oppure entrare nelle vostre orecchiette, le orecchie intendevo, voi che siete sul pullman con le auricolari. È un piacere affiancarvi a quest'ora del giorno che ci avete la carogna, sì, però è venerdì, poi dopo c'è Pasqua, Pasquetta, ma che grasse sto weekend. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll, qui c'è l'Ariele e Mister Trombetta. Grazie a Roberto Friccantoni, è inutile nascondersi dietro un dito. Questa trasmissione, che a un primo ascolto veloce potrebbe sembrare una cozzaglia di stupidate buttate lì a caso, grazie alla presenza di Roberto Friccantoni assume Pane, Burro e Rock and Roll anche il ruolo di programma di approfondimento. Programma che non si ferma a parlare ai classici rocker da favoletta, sporchi, brutti e cattivi, col chiodo e un po' alcolizzati. No, no, no, è un programma che si rivolge ai veri rocker, a tutti quanti, ai rocker che amano la cultura, ai rocker che hanno capito che quelle canzoni che sentivano fin da piccoli, perché spinti dall'amore per il rock and roll, da sempre erano messaggi, erano grandi poesie che arrivavano alle loro orecchie con un linguaggio strano, un linguaggio anglosassone, che non sempre hanno capito. Il tutto per ricordare come Pane, Burro e Rock and Roll, nella rubrica Cosa volevano dirci, traduce in maniera seria i brani che hanno fatto la storia del rock. Settimana scorsa gli amici della seconda ora si sono gustati una Walk on the Wild Side, Mr. Lou Reed. Walk on the Wild Side sarebbe Fatti un giro nel lato selvaggio, o meglio Ace Barbo, Fatti un giro nel lato selvaggio. Siete pronti? Riccantoni alla voce, Isaac Rizzi e il DJ Ariele alla chitarra. Senti che poesia. 1, 2, 6, 9. Chiudo gli occhi, sembra Lou Reed, Free. Holly è venuta da Miami, Florida. Ha attraversato gli Stati Uniti in autostop. Lungo la strada si è fatto le sopracciglia, si è rasato le gambe ed è diventato una lei. Ha detto, ehi Sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. Ha detto, ehi Sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. arrivato dall'isola. Nella stanza sul retro era carina con tutti, ma non ha mai perso la testa mentre facevi chinotti, e tra uno e l'altro ha detto alla gente: ehi sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. Ha detto: ehi sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. John non l'ha mai dato via per niente, no? Tutti dovevano pagare e pagare ancora. Una botta qui e una botta là, noi Rossiti al posto dove dicono: ehi sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. Ho detto: ehi sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. Hey Joe. Jackie completamente fatta di anfetamine, pensava di essere James Dean per un giorno almeno. Allora ho capito che doveva schiantarsi, il Valium avrebbe aiutato la botta, e disse: ehi sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. Ha detto: ehi sbarbo, fatti un giro sul lato selvaggio. mio caro signor Antoni, ci vuole un cappello per l'intervento. Sono d'accordo, no. Un bel incipit. Per introdurre la notizia selezionata per noi dal magistrale Isaac Rizzi, che quest'oggi non si è perso nelle pruderie dei suoi boxer, invece è andato a scegliere una notizia di costume. Oh, finalmente. Infatti, leggiamo qua. Negli strano ma vero. Sigla! Iran, marito deve comprare 8100 libri alla moglie abbandonata. A Bologna si direbbe. Soccia che sfiga. Teheran! Un marito iraniano che ha abbandonato la moglie è stato condannato da un giudice a comprarle più di 8000 libri di poesie. Di poesie si badi bene. Il quotidiano Iran. Siamo in Iran e. Naturalmente il quotidiano con poca fantasia si è chiamato Iran. Scrive oggi che il giudice ha ordinato all'uomo di comprare alla moglie abbandonata i libri di poesia per una spesa prevista di 700 milioni di rial, corrispondenti a circa 50.000 euro. Era questo infatti il loro meire, ovvero ciò che al momento del matrimonio l'uomo si impegna per legge a versare alla sposa in qualsiasi momento questa lo richieda. È una sorta di contratto prematrimoniale. È vero quello che dice. Certo che è vero, l'ho letto. Ma soprattutto mi sembra una specie di dote fatta dal marito. Esatto. Cioè, che la moglie può esigere in qualsiasi momento. Mi sorge un piccolo dubbio. Quale? 50.000 euro di libri di poesia. Sta signora, ma dove li va a mettere dopo? Sì, no. Ha bisogno di una biblioteca gigante. Forse abita in un palazzo da sogno, da mille e una notte. Sogniamo. Esatto, meriterebbe di essere in qualche modo incontrata questa signora. Mi piacerebbe? Beh sì, solo per la lettura, per il piacere della poesia. Mamma mia che roba. Kim Crimson, Epitaph. Storia di mucchetti sulla pelle, no? Sì, sono sicuro che a molti di voi ha fatto questo effetto. È un piacere. È la colazione di Rock FM.